La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, sono le 16.30, primi 44 secondi, in diretta da Milano, vi saluta e vi ringrazio per l'ascolto come sempre Oscar Giannino, sia in diretta o in podcast il vostro ascolto, e vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it per proporre temi, opinioni, critiche, domande e per candidarvi alla serie che continua, una due puntate alla settimana, Italia non per giovani. Con le storie di chi se n'è andato e perché, o è andato e tornato, oppure non se ne può andare ed è convinto di avere buone ragioni o per restare oppure vorrebbe andare ma non ce la fa. Del resto, se avete sentito qualche edizione di GR o Giornale Radio, sapete che c'è un'ulteriore conferma dell'aggiornamento dei dati della demografia, con il record negativo di per l'ennesimo anno di discesa dei nati, e quindi le ragioni le sappiamo, ne abbiamo affrontate in molte puntate, il fisco più ostile alla famiglia, ai figli e questo qua, oltre agli ascensori sociali rotti, e quindi ecco qua, e questo come sapete è un problema oramai da molti anni che pesa anche nella produttività, visto che uno dei fattori fondamentali della produttività è anche la demografia, pone problemi di sostenibilità intergenerazionale sui conti del welfare, della sanità e della previdenza, pensate a questo fine settimana in cui il Corriere della Sera ieri con Fubini, già sabato voglio dire, e poi le uscite di Carlo Calenda e anche ieri di Gentiloni hanno, da Pippo Baudo, hanno confermato che l'attuale governo pensa a una svolta di realismo sulla politica economica e quindi a una decontribuzione sostanziale del costo del lavoro, quantomeno per i giovani. Io, come sapete, da anni ho proposto, ultimo ovviamente tra cotanto senno, un criterio per il quale bisognerebbe abbassare le aliquote contributive ai giovani all'inizio, farle salire man mano che procede la loro età contributiva, in maniera tale che nel corso dell'anno, in maniera attuariale, ci sia un equilibrio di quanto si versa, ma intanto da subito ci sia un riequilibrio tra generazioni. È ovvio che, fine di questa considerazione, questo criterio, vedremo come, se il governo poi lo declinerà in provvedimenti concreti, è l'opposto che stanziare miliardi per prepensionare chi un lavoro ce l'ha. Però vedremo, non stiamo troppo a sottilizzare, vediamo in cosa si sostanzierà davvero questa svolta che dice non più bonus ma misure strutturali centrate sul problema italiano, bassa crescita, bassa produttività, mentre nel frattempo il debito pubblico, lo sappiamo, non è certo sceso perché abbiamo contrattato sforamenti sul deficit rispetto ai nostri impegni. Detto questo, di che cosa ci occupiamo invece? Ci occupiamo di un altro grande capitolo della spesa italiana e in particolare di quella per investimenti, gli investimenti infrastrutturali in grandi opere. Sapete benissimo che uno del mantra delle canzoni spesso ripetute, giustamente, è che tra le tante scelte sbagliate fatte in questi anni di crisi dal 2007 in poi a fronte del rientro della finanza pubblica è stato quello di tagliare la quota di investimenti pubblici, e sommando la quota di investimenti pubblici e privati venuti meno nella crisi eravamo a 27 punti in meno rispetto al 2007. Qualche timido segno di ripresa degli investimenti sia privati che pubblici nell'ultimo anno e mezzo ce lo abbiamo, vedremo questo anno con la super batteria di incentivi disposti con la legge di bilancio 2017 per i privati, per l'industria 4.0, se ci sarà, speriamo, nel mondo privato una crescita a doppia cifra perdonate, dell'investimento in beni strumentali, nanotecnologie, nuovi materiali, sensoristica, tutto ciò che fa parte del corredo dell'industria 4.0, ma a questo negli ultimi due anni i governi, per la parte invece di investimenti pubblici, hanno anche tentato un rilancio. È vero che nelle leggi di bilancio si è tornato a vedere un modesto segno più per gli investimenti pubblici, ma di solito si torna a dire poi che quello che serve sono le grandi opere, le grandi opere. E quindi c'è un programma di grandi opere strategiche che il ministro Del Rio ha sforbiciato rispetto alle centinaia di miliardi previste e poi incagliate dalla vecchia legge obiettivo che risale ai governi Berlusconi, e pur tuttavia le grandi opere oggi compongono una lista il cui fabbisogno è pari all'incirca a 70 miliardi e 26 miliardi da soli sono quelli delle opere a carico di Ferrovie dello Stato tramite gli investimenti dello Stato, ovviamente i trasferimenti, perché sapete che l'intenzione del governo Renzi è quella di fare Ferrovie dello Stato sempre di più il grande braccio strategico degli investimenti strutturali, di cui nasceva anche la strategia di annettervi l'ANAS e la strategia di tentare di ricondurre a Ferrovie dello Stato, cioè a Trenitalia, molto trasporto sia su gomma che su ferro pubblico locale. A Milano è aperta proprio in questi giorni una grande polemica, per esempio sui giornali cittadini, in merito al fatto che Ferrovie dello Stato voleva assumere una quota in una delle linee della metropolitana. ATM è contraria, ma fa parte proprio di questa strategia. Allora, oggi parliamo di un appello che è stato firmato da molte decine di accademici italiani, che entra proprio nel merito di una questione fondamentale. La questione fondamentale è quella di non buttarsi a capofitto nelle grandi opere, perché il loro moltiplicatore è per forza superiore all'unità, tanto più nei momenti di crisi, ma di decidere di fare scelte di questo impegno quando ci si sia premuniti di analisi costi-benefici fatte secondo gli standard internazionali, da collegi il più possibili autonomi e indipendenti degli interessi di chi magari poi fa i progetti e li realizza, e come è giusto c'ha il suo ritorno anche sugli investimenti e sulla realizzazione. E questo è un grandissimo punto che fa parte non solo di come si valutano gli investimenti pubblici. La realtà, e c'è chi sostiene in minoranza, che una valutazione ex ante ben fatta andrebbe fatta per tutte le grandi decisioni che compongono la politica economica del paese, la riforma del paese e così via. E diciamo che questo tipo di valutazione ex ante, che poi è la base per verificare ex post che cosa davvero si spende e se si sono mantenuti gli obiettivi, se erano realizzabili davvero e qual è il ritorno dell'impiego delle risorse pubbliche, purtroppo nel nostro diritto amministrativo manca. Ma per quello che riguarda le grandi opere ci sono esperienze di tantissimi paesi in cui invece l'analisi costi-benefici si fa in questo modo. È un appello firmato, ripeto, da decine di accademici italiani e firmato tra gli altri anche da accademici che si occupano di altre materie, ma levano la voce perché ci sono rappresentanti dei politecnici di tutta Italia, come è ovvio, ma poi ci sono personaggi anche che si occupano di finanza e banca da sempre, Salvatore Bragantini, tra le firme quelle di Carlo Coltarelli, l'ex commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica, e tanti altri. Allora, per capire meglio di che cosa si tratta e dell'importanza di questo appello, del valutare anche se la politica, il ministro Delrio in particolare, abbia un orecchio attento per questa proposta che serve a valutare bene dove davvero valga la pena di concentrare risorse di questo ammontare così rilevante, abbiamo con noi uno degli animatori di questo appello, che per una vita in Accademia, al Politecnico di Milano, si è occupato appunto di questi temi e continua a farlo, ovviamente, il professor Marco Ponti. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a voi. Allora, ricorda ai nostri ascoltatori, ma le norme vigenti nel nostro paese per quello che riguarda l'analisi costi-benefici a oggi, visto che lanciate questo appello, che cosa prevedono in realtà? A oggi nulla, anzi sono persino grottesche, nel senso che per le autostrade, stando nel settore dei trasporti, che sono però il 90% delle grandi opere, per le autostrade in realtà è richiesto solo l'analisi finanziaria, cioè vedere se si paga o quanti soldi dello Stato c'è bisogno se gli utenti non pagano tutti i costi delle autostrade. Questa è un'esigenza anche di bancabilità di queste opere. L'analisi costi-benefici è fatta come sovrappiù, ma non è prettamente richiesta, anche se c'è una normativa del 2012 che però sembra che nessuno si ricordi più. Ma la cosa più incredibile su cui l'appello si concentra in particolare... Aspetta, io la interrompo perché la questione dell'autostrada ha la sua importanza. Esempi come quelli della Brebemi, per esempio, dimostrano, io sono tutto tranne che uno contrario alle infrastrutture, non sono uno che dice no a tutto, però dimostrano che quello che ci ha appena detto sulle autostrade può clamorosamente portare a opere per le quali è stato previsto poi un flusso di traffico e di utilizzo che nella realtà si dimostra largamente inferiore, e per come funziona, quella che a mio giudizio è una follia, cioè la concessione secretata autostradale nel nostro paese, io non ho mai capito perché siano secretate, ma comunque poi lo spiego. Significa poi che è lo Stato che si deve sobbarcare a ciò che ai privati non entra in cassa. Non è proprio così, perché la cosa scandalosa delle concessioni autostradali è il tasso di interesse che viene garantito, che è il 7%, quando oggi il denaro costa lo 0, ed è segretato per quello, detto fuori dai denti. Però guardiamo la Brebemi, allora, rispetto alle opere ferroviarie. Se la Brebemi continuerà a andare malissimo come va fino adesso il traffico passeggeri rispetto a quello previsto, gli utenti pagheranno e i costi sono stati raddoppiati rispetto al preventivo su cui era fatta l'analisi, perché hanno aggiunto di tutto e di più. Gli utenti, nel bene o nel male, pagheranno comunque 2/3 di quell'opera. Solo l'altro terzo lo dovrà pagare lo Stato, non va bene lo stesso, ma è un terzo. No, chiarissimo. Delle opere ferroviarie invece, per legge, e di questa è la cosa più folle, lo Stato paga il 100%, cioè indipendentemente da qualsiasi risultato di costo o di traffico, il che è incredibile. Io non ci credevo, francamente non ci credevo, ma ho avuto dalla Violetta Bulc, che è la responsabile dei trasporti dell'Unione Europea, una lettera in cui spiegava che la normativa italiana, se un'opera pubblica è pagata il 100% coi soldi pubblici, non è richiesta alcuna analisi di nessun tipo. Cioè, se i soldi li mettono in parte gli utenti, va bene, ci vuole qualche tipo di analisi. Ma se sono tutti soldi nostri, cioè dei contribuenti, Non bisogna rendere conto di nulla, posso anche buttarli dalla finestra, fare opere perfettamente inutili, il che trovo stupefacente. Infatti ho dovuto vedere la lettera con i miei occhi per crederci, e un sacco di studiosi non ci credevano, non sapevano dell'esistenza di questa folle normativa, non so come altro definirla, se non che dimostra quanto irresponsabile verso l'uso delle risorse sia oggi la politica italiana, perché non esiste una cosa che dice io non devo rispondere in nessun modo se quell'opera è utile oppure no, ma è così, eh. E di questi 26 miliardi di grandi opere ferroviarie, il Politecnico ha fatto un po' di analisi indipendenti e anche altri li hanno fatti, ma i risultati sono tragici, nel senso che i traffici previsti ragionevolmente non giustificano minimamente queste opere. Quelle poche analisi fatte, non indipendenti, ma fatte dalle ferrovie dello Stato o addirittura dai concessionari, cioè da quelli che devono costruire l'opera, come nel caso della Milano-Genova, fanno stime di traffico che sono 7 volte o 6 volte quelle che sembra ragionevole attendersi, mentre la prassi internazionale dice che siccome i costi sono certi, perché di solito devono essere di più di quelli previsti, i traffici sono incerti perché riguardano il futuro, è buona norma, è obbligo di good practice internazionale tenersi molto prudenti sui costi, cioè prevederli con grande abbondanza, e molto prudenti anche sul traffico, cioè prevederli bassi. Invece la prassi di quelle poche analisi fatte dagli interessati ovviamente è il contrario, cioè le previsioni di costo sono tenute bassissime e le previsioni di traffico sono nel cielo, cose assurde che non sono difendibili su nessun terreno, le cose non devono difenderli in nessun dibattito, perché no, loro hanno interesse oggettivo che queste cose vadano avanti, ma non sembra, soprattutto poi perché le risorse pubbliche sono scarse e non ci sono per tutto, quindi in una circostanza di questo tipo è essenziale che ci sia almeno un confronto, poi le metodologie possono variare, ci può essere disaccordo sulle metodologie, per carità, ma almeno una gerarchia questa serve di più e costa di meno di quest'altra, questa sembrerebbe davvero irrinunciabile. Per questo ho fatto così poca fatica a raccogliere quelle 42 firme, ho anche interrotto la raccolta perché arrivavano in continuazione, quindi sono contento. Peccato che il Ministero finora non abbia, a distanza di una settimana, ancora risposto nulla. Non sono sicuro che risponderà. Allora, adesso abbiamo un minuto di traffico e poi però ripartiamo esattamente dal dato del Ministero, perché nell'appello si dice però Del Rio ha promesso un ufficio che si occupi di questo. Lo vediamo tra un minuto. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui, tornati a parlare, torniamo a parlare di questo appello firmato da oltre 40 accademici italiani, perché il programma delle grandi opere sia però condizionato a un adeguamento di normativa, cioè il fatto che la decisione non deve essere lasciata alla piena discrezionalità della politica, che come abbiamo visto poi si assume tutte le spese da fare, bensì che vada prima di decidere il via di una grande opera, preceduto da un serio esame fatto secondo criteri standard internazionali e con l'intervento di tecnici indipendenti sui costi e benefici di quest'opera. Molti di voi richiamano: ah, ma come le polemiche sull'alta velocità? Infatti tutte le trasmissioni che abbiamo fatto sull'alta velocità Torino-Milano, insomma sull'asse con Lione, quello in quel caso erano proprio polemiche sulle stime fatte da analisi indipendenti rispetto all'opera. Il problema è che in questo paese spesso le stime le fanno i concessionari stessi, che come ovvio sono del tutto interessati a realizzare l'opera in ogni caso, di cui le stime gonfiate sul traffico, le revenue, gli incassi, eccetera eccetera. E con noi il professor Marco Ponti. E però il ministro Del Rio ha recentemente fatto un accenno proprio a una struttura tecnica che dovrà valutare questi investimenti pubblici, ma è un accenno come se fosse un di più, o è invece secondo voi la volontà di prevedere esplicitamente questo filtro secondo standard internazionali di metodo da seguire e con l'indipendenza di chi lo compone, professore? Ma dunque l'idea è ottima, è che di buona intenzione sono lastricate le vie dell'inferno. Il gruppo messo su da Del Rio è molto qualificato, il problema è che è messo su da più di un anno e sta producendo le linee guida dopo un anno. I cantieri vanno avanti intanto e abbastanza rapidamente, e il ministro e in generale la politica non ha mai detto, ma per questa, inaugurando o visitando i cantieri, non ha mai detto per quest'opera occorrerà un'analisi. Non ha mai nominato questa struttura pur creata da lui, che crea fortissime perplessità, perché ha fatto dichiarazioni in qualche modo contrarie allo spirito della valutazione, dicendo che, parlando della cura del ferro, che le ferrovie vanno costruite ovunque e a qualunque costo, più o meno, il che nega la stessa logica di confrontare progetti alternativi, di confrontare modi di trasporto alternativi. E questo è il secondo motivo dell'appello, cioè si chiede a gran voce al ministro: hai messo in piedi questa buona struttura con buone idee, ma usala, santo cielo, visto che in un anno e mezzo l'opinione pubblica non ha nemmeno notizia che questa struttura esista. Quindi l'appello ha un significato in parte di critica, ma in parte fortemente esortativo, perché il rischio che diventi una foglia di fico questo. Lei lo sa che quando riemergono grandi opere annunciate nella legge obiettivo e poi cadute, ma cadute perché non c'era la disponibilità finanziaria a farle partire, ma però spesso riemergono e ritornano nella lista delle grandi opere strategiche, perché si dice, in caso di mancata realizzazione, comunque lo Stato è tenuto a quel punto a pagare enormi penali. Quindi noi il costo-beneficio non lo facciamo, l'analisi preventiva, ma poi le penali ci portano a farle. E in questo caso cosa dovrebbe avvenire secondo lei? Ma dunque il principio rimane invariato. Se un'opera è come dire, molto avanzata, è fatta per tre quarti, effettivamente conviene finirla piuttosto che pagare le penali, anche se di scarsa utilità oppure se un'opera è, c'è una forte penale, ma è visto, non è ancora partito, è appena partita ed è vistosamente inutile, cioè non regge un'analisi, valutiamo se pagare la pena, se costa di più alla collettività buttar via soldi, buttar via 8 miliardi per un'opera che non sta né in cielo né in terra, oppure pagare la penale. E io ho una visione ancora più maligna su questo. Se io dico alla, perché tra l'altro queste penali sono state decise in modo assurdo, quando, senza gara, le gare non sono state fatte per le maggiori delle grandi opere, e quando l'opera era una linea sul pennarello, c'è un forte sospetto che siano, non so come dire, che questi contratti siano stati fatti contro l'interesse pubblico, ma in favore di ben più concreti interessi privati, perché mai affidare con una penale un'opera quando è una linea sul del pennarello sulla carta. Se ci fosse un'analisi fatta in corso, anche in corso d'opera, può benissimo dire quest'opera va finita se c'è la penale, oppure basta finirne una quota perché comunque funziona lo stesso, in modo che la penale non si paga, oppure negoziare con quello che ha avuto questo stranissimo appalto senza gara e dire magari non fai questa cosa, ma vedo il modo di farti fare delle altre cose. Perché non dimentichiamo che lo Stato ha una forza negoziale fortissima. Ma se dichiaro sempre che l'opera va comunque benissimo, ogni istanza reale di confrontare soluzioni diverse, di finirla, di non finirla, di pagare la penale, viene meno. Se la politica dichiara tutto va bene, ma la Marchesa, è ovvio che perde ogni forza contrattuale rispetto a quegli interessi che davvero, quando le gare non ci sono state, sa che gli appalti sono stati assegnati 3 giorni prima che scattassero gli obblighi europei di fare le gare, il che lascia veramente molto perplessi, e questo è un eufemismo. Quando è scattato quell'obbligo? Ricordiamolo a chi non lo sa. Nel 92, se non sbaglio, 92-93, posso sbagliarmi di un anno, ma non l'ordine del tempo. Ecco, e furono assegnati, il grosso di queste cose furono assegnati 3 giorni prima, cioè dicembre, gli ultimi giorni di dicembre, prima dell'anno in cui scattava l'opera, ecco, con una linea sul pennarello, e questo è il terzo valico in particolare tra Milano e Genova, quando il progetto era una linea fatta col pennarello. Allora, il terzo valico dei Giovi, stiamo parlando di un impegno di 6 miliardi e 2, cari ascoltatori. Allora, di preventivo, ma si sa che i preventivi tendono a essere un po' diversi dai costruttivi, ma facciamo finta che invece siano così. No, però per dirvi, cari ascoltatori, che qui non si tratta della balzanata di professori dei politecnici italiani che vogliono avere un ruolo nelle commissioni di valutazione, si tratta di decine e decine di miliardi di spesa pubblica in opere infrastrutturali assegnati senza gara e assegnati sulle basi di stime che, quando ci sono, sono del tutto interessate di ciò che giustifica davvero in termini di costi, benefici, l'impatto, la valutazione ex ante degli oneri compensativi, che cosa davvero rientrerà in termini di tariffe e così via. È possibile vivere in un paese così? Questa è la domanda che ci pongono, non tecnica, ma che ha a che vedere con la trasparenza elementare e l'efficacia di come si utilizzano risorse pubbliche scarse, i 42 sottoscrittori di questo appello. Per questo ne ho parlato. Non è una cosa tecnica, è un fondamento di opacità dell'utilizzo delle risorse. Quando pensate a quante di queste decine di miliardi, magari se decontribuiamo l'acceleratore sul far crescere l'output potenziale, può essere più breve e immediato. Io non lo so, ma il problema posto dai 42 è un problema non serio, serissimo, grazie al professor Ponti e chi lo ha firmato.